smettessimo di pensare, di pensarci importanti, o di assecondare ogni spinta emozionale, una densa rete neurale che decide cosa farci provare. Se accettassimo di fatto il nostro ruolo è naturale, troppo stupidi e coscienti per un vivere animale, per cui tentare di alleviare l'orrore usuale è diventato il nostro obbligo morale. Ma invece questa notte me ne voglio scordare e reclutare gente senza ordine morale, sovvertire leggi, ogni regola sociale, a mezzanotte regna il caos nella capitale. Parapapapara, lasciatemi cantare che anche quello faccio male, mi voglio sfogare via la fobia sociale, non voglio più oscillare tra l'ipercontrollo e la voglia di scoppiare. Ma in fondo questa notte è per ballare, un'orda tribale che devasterà il locale in piena estasi ancestrale. Ognuno libero e uguale, io che guido la deriva dell'uomo animale. Questa notte è solo per capire che siamo programmati per razionalizzare, discolparci e sperare. Ma col vago sentore che stanotte sia la notte della trasformazione. Ma in fondo questa notte è per ballare, un'orda tribale che devasterà il locale in piena estasi ancestrale. Ognuno libero e uguale, io che guido la deriva dell'uomo animale. Questa notte è solo per capire che siamo programmati per razionalizzare, discolparci e sperare. Ma col vago sentore che stanotte sia la notte della trasformazione. Intanto è già mattina, vedo corpi esanimi ovunque, la trasformazione è fallita, sono il ritratto dell'uomo qualunque.